Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernard. La casa che avevamo ottenuto in affitto per la durata del corso di Horowitz era stata in passato di uno scultore nazista morto un anno prima. Le creazioni di quell'uomo che nel quartiere la gente chiamava maestro si trovavano ancora lì, in tutte quelle stanze alte da 5 a 6 metri. Proprio l'altezza delle stanze ci aveva spinti a prendere subito la casa in affitto. Le sculture presenti dappertutto non ci davano fastidio, erano anzi acusticamente vantaggiose quelle rozze figure appoggiate alle pareti scolpite da un artista del marmo di fama mondiale, come da qualcuno c'era stato detto, il quale aveva lavorato per decenni al servizio di Hitler. In effetti, quelle enormi protuberanze marmoree erano state spinte dai locatori contro le pareti apposta per noi, il che dal punto di vista acustico era l'ideale, pensai. All'inizio ci eravamo spaventati alla vista di quelle sculture, di quell'ottuso monumentalismo di marmo e granito. Soprattutto Wertheimer ne era stato respinto, ma Glenn aveva detto immediatamente che quelle stanze erano ideali e che la presenza di quei monumenti le rendeva ancor più ideali per i nostri scopi. Le sculture erano talmente pesanti che il nostro tentativo di spostare la più piccola di esse fallì miseramente. Le nostre forze erano insufficienti e pensare che non eravamo deboli affatto. I virtuosi del pianoforte, contrariamente all'opinione del pubblico, sono uomini robusti e dotati di una incredibile capacità di resistenza. Glenn, che ancora oggi tutti credono fosse un uomo di debolissima costituzione, era invece un tipo atletico. Raggricciato sulla tastiera dello Steinway, sembrava uno storpio, ed è così che lo conosce tutto il mondo musicale. Ma questo mondo è stato vittima di un inganno totale, pensai. Sempre e dovunque Glenn era presentato come uno storpio e come un debole, come l'uomo tutto spirito per eccellenza, al quale non si può attribuire altro che la deformità, e con questa deformità, poiché con essa fa tutt'uno, una grande ipersensibilità, mentre Glenn in effetti era un tipo atletico, assai più forte di Wertheimer e me messi insieme. Ciò che avevo potuto constatare una volta di più non appena egli si accinse a tagliar via con le proprie mani un frassino davanti alla finestra della sua stanza che, come lui stesso diceva, gli impediva di suonare il pianoforte. Segò da solo il frassino, che aveva un diametro di almeno mezzo metro. A noi non permise neppure di avvicinarci a quel frassino. Lo segò in breve tempo in piccoli pezzi che accatastò contro il muro della casa. È il tipico uomo americano, avevo pensato allora, pensai. Glenn aveva appena finito di segare quel frassino, che a suo dire gli impediva di suonare il pianoforte, quando gli venne in mente di fare una cosa semplicissima, e cioè tirare le tende e abbassare le serrande della sua stanza. Avrei potuto risparmiarmi di segare quel frassino, così disse, pensai. Noi di frassini come quello ne seghiamo di continuo, ne seghiamo moltissimi di frassini mentali come quello, disse. E pensare che usando qualche ridicolo accorgimento potremmo benissimo evitare di segarli. Così disse, pensai. Il frassino davanti alla finestra lo aveva disturbato fin dalla prima volta in cui a Leopoldskron si era seduto allo Steinway. Senza neanche interpellare i proprietari, andò al capannone degli attrezzi, prese ascia e sega e abbatté quel frassino. Se sto lì a chiedere così lui, non faccio altro che perdere tempo ed energia. Questo frassino lo abbatto subito, disse, e in effetti così fece, pensai. Non appena il frassino giacque sul terreno, a Glenn venne in mente che avrebbe potuto limitarsi a tirare le tende, ad abbassare le serrande. Il frassino abbattuto lo segò in piccoli pezzi senza il nostro aiuto, pensai, e là dove prima sorgeva il frassino, Glenn stabilì quell'ordine assoluto che a lui si confaceva. Se una cosa ci ostacola, dobbiamo eliminarla, aveva detto Glenn, anche se si tratta solamente di un frassino. E non dobbiamo prima domandare se quel frassino abbiamo il permesso di abbatterlo, poiché già questa domanda ci indebolisce. Se prima domandiamo una cosa simile, la debolezza che da ciò consegue ci danneggia, forse addirittura ci distrugge. Così lui, pensai. E ripensai anche subito che a nessuno dei suoi ascoltatori e dei suoi adoratori verrebbe mai in mente che Glenn Gould, quest'uomo noto e celebre in tutto il mondo come l'archetipo della debolezza fisica dell'artista, potesse abbattere da solo in un tempo brevissimo un forte e sano frassino con un tronco dello spessore di mezzo metro e poi accatastare contro un muro della casa i pezzi di questo frassino, il tutto tra l'altro in condizioni climatiche spaventose, pensai. Gli adoratori adorano un fantasma, pensai, adorano un Glenn Gould che non è mai esistito, ma il mio Glenn Gould è immensamente più grande e più degno di adorazione del loro Glenn Gould, pensai. Quando c'era stato detto che saremmo entrati nella casa di un famoso scultore nazista, Glenn era scoppiato in una sonora risata. Wertheimer si unì a questa sonora risata, pensai, ed entrambi avevano tirato in lungo questa risata fino a sentirsi completamente stremati e alla fine andarono a prendere in cantina una bottiglia di champagne. Glenn fece esplodere il tappo proprio sul volto di un angelo di marmo di Carrara alto 6 metri e sprizzò lo champagne sul volto degli altri mostri lì in giro per la casa, lasciandone solo un poco che bevemmo direttamente dalla bottiglia. Glenn alla fine scagliò la bottiglia con tale violenza sulla testa dell'imperatore situato in un angolo della stanza che noi fummo costretti a metterci al riparo. Nessuno degli adoratori di Glenn Gould potrebbe mai credere che Glenn Gould sapesse ridere come in effetti rideva, pensai. Il nostro Glenn Gould era capace di risate irrefrenabili. Nessun altro al mondo sapeva ridere in quel modo, pensai. Per questo più di chiunque altro andava preso sul serio. Chi non è capace di ridere non va preso sul serio, pensai. E chi non è capace di ridere come Glenn non va preso sul serio come Glenn. Verso le 3 del mattino si accovacciava stremato ai piedi dell'imperatore, lui e le variazioni Goldberg, pensai. Ecco un'immagine che mi torna di continuo. Glenn è schiacciato contro il polpaccio dell'imperatore e guarda il pavimento con gli occhi sbarrati. Non gli si poteva rivolgere la parola. All'alba era come appena nato, così lui. Ogni giorno in albero una testa nuova, così lui, anche se per il mondo ho ancora la solita vecchia testa, così lui. Un giorno sì, un giorno no, alle 5 del mattino, Wertheimer andava a piedi fino all'Untersberg e tornava indietro. Per fortuna aveva scoperto una strada asfaltata che portava fino all'Untersberg. Io invece prima della colazione facevo un giro intorno alla casa, uno solo ma con qualsiasi tempo, del tutto svestito e non ancora lavato. Glenn usciva di casa solamente per recarsi da Horowitz e poi tornava indietro. «In fondo io odio la natura», diceva continuamente. Io questa frase l'avevo fatta mia, me la dico tuttora e, credo, me la dirò per sempre, pensai. «La natura è contro di me», diceva Glenn, «intendendo la cosa come la intendo io, che pure questa frase me la dico di continuo», pensai. La nostra esistenza consiste nell'essere e nel lottare perennemente contro la natura, diceva. Lottiamo contro la natura fino a quando rinunciamo a questa lotta, perché la natura è più forte di noi, noi che per arroganza ci siamo trasformati in un prodotto artificiale. Noi non siamo in effetti esseri umani, noi siamo prodotti artificiali. L'uomo che suona il pianoforte è un prodotto artificiale, un prodotto disgustoso, diceva lui per concludere. Noi siamo quelli che vogliono continuamente sottrarsi alla natura, ma come ovvio non ci riusciamo, così diceva, pensai, e restiamo a metà strada. In sostanza, diceva, non vogliamo essere uomini ma pianoforte. Per tutta la vita vogliamo essere pianoforte e non uomini. Sfuggiamo all'uomo che è in noi per diventare il pianoforte in tutto e per tutto, ma in questo siamo destinati a fallire anche se non vogliamo crederci. Il suonatore di pianoforte ideale, Glenn non usava mai il termine pianista, è colui che vuole essere pianoforte. E infatti ogni giorno mi dico appena sveglio, voglio essere lo Steinway, non voglio essere l'uomo che suona lo Steinway, voglio essere lo Steinway in sé. Qualche volta ci avviciniamo, anzi ci avviciniamo moltissimo a questo ideale, diceva. Ed è allora che ci sembra di impazzire, di essere quasi arrivati alla follia che temiamo più di ogni altra cosa al mondo. Per tutta la sua vita Glenn aveva avuto il desiderio di essere lo Steinway in sé. Gli era odiosa l'idea di porsi solamente come intermediario musicale tra Bach e lo Steinway e di essere un giorno stritolato tra Bach e lo Steinway. Un giorno, così lui, verrò stritolato tra Bach da una parte e lo Steinway dall'altra, così diceva, pensai. Da quando sono in vita ho sempre avuto paura di essere stritolato tra Bach e lo Steinway e mi costa una fatica enorme sfuggire a questo atroce pensiero, diceva. L'ideale sarebbe che io fossi lo Steinway, che non avessi bisogno di Glenn Gould, diceva. Se fossi lo Steinway potrei fare in modo di rendere Glenn Gould del tutto superfluo. Tuttavia, così Glenn, non c'è mai stato al mondo un solo suonatore di pianoforte al quale sia riuscito, essendo Steinway, di rendere se stesso superfluo. Svegliarsi un bel giorno ed essere insieme Steinway e Glenn. Così diceva, pensai, Glenn Steinway, Steinway Glenn soltanto per Bach. È possibile che Wertheimer odiasse Glenn ed è possibile che odiasse anche me, pensai. Questo pensiero era fondato su migliaia, se non decine di migliaia di osservazioni che riguardavano non solo Wertheimer, ma anche Glenn e me. E io stesso non ero stato esente dall'odio per Glenn, pensai. Odiavo Glenn tutti i momenti e nello stesso tempo lo amavo con estrema coerenza. Non c'è niente di più tremendo che vedere un essere umano il quale è talmente grandioso che la sua grandiosità ci annienta e mentre noi questo processo lo osserviamo e lo sopportiamo e alla fin fine non possiamo far altro che accettarlo, in realtà non crediamo affatto a questo processo e rimaniamo increduli ancora per molto tempo fino a quando, pensai, esso non ci trasforma ai nostri occhi in un fatto incontrovertibile. Ma allora non c'è più niente da fare, per noi è finita. Wertheimer ed io, come del resto ogni altro aspetto di Glenn stesso, eravamo stati indispensabili all'evoluzione di Glenn. E Glenn, così pensai nella sala della locanda, ci ha sfruttati entrambi. Pensai alla sfacciataggine con cui Glenn affrontava ogni cosa e per contro alle atroci esitazioni di Wertheimer e alle mie riserve nei confronti di tutto e di tutti. Lui ad un tratto diventò Glenn Gould, ma il momento della trasformazione in Glenn Gould, questo devo dirlo, gli altri non riuscirono a percepirlo e non ci riuscimmo nemmeno noi, né Wertheimer né io. Per mesi Glenn ci aveva trascinati con sé in un comune processo di dimagrimento, pensai. Ci aveva trascinati nel suo invasamento per Horowitz, perché in effetti è probabile che io da solo non avrei resistito quei 2 mesi a Salisburgo con Horowitz e men che meno Wertheimer. È probabile, dicevo, che senza Glenn ci avrei rinunciato. Perfino Horowitz, in mancanza di Glenn, non sarebbe stato lo stesso Horowitz. Quei due si condizionavano a vicenda. Fu un corso che Horowitz fece apposta per Glenn, pensai in piedi nella locanda. Nient'altro che questo. Fu Glenn che fece di Horowitz il proprio maestro, non Horowitz che fece di Glenn il genio, pensai. In quei mesi salisburghesi, grazie al proprio genio, Glenn fece di Horowitz il maestro ideale per il proprio genio, pensai. Nella musica si entra come un tutto oppure non si entra affatto, diceva spesso Glenn, anche rivolto a Horowitz. Ma era il solo a sapere il significato di questa frase, pensai. Un uomo come Glenn deve incontrarsi con un uomo come Horowitz, pensai. E questo ha da succedere in un momento ben preciso, nell'unico momento giusto. Se non si incontrano nel momento giusto, non può accadere ciò che è accaduto tra Glenn e Horowitz. Il maestro, pur non essendo un genio, è reso dal genio un maestro geniale. Il maestro geniale di questo genio, appunto, in un certo momento e per un certo periodo, pensai. In realtà la vera e propria vittima del corso di Horowitz non sono stato io, pensai, ma piuttosto Wertheimer, il quale in mancanza di Glenn sarebbe certo diventato un eccellente virtuoso del pianoforte, celebre forse in tutto il mondo. È lui che in quell'anno, per frequentare il corso di Horowitz, ha commesso l'errore di andare a Salisburgo, dove poi è stato annientato non da Horowitz ma da Glenn. Wertheimer infatti voleva diventare un virtuoso del pianoforte, mentre io non lo volevo affatto, pensai. Per me il virtuosismo pianistico era stato soltanto una scappatoia, una tattica dilatoria per rinviare qualcosa. Che cosa in verità io intendessi rinviare non l'ho mai capito e neanche adesso lo so con chiarezza. Wertheimer voleva mentre io non volevo, pensai, e Glenn ha Wertheimer sulla coscienza, pensai. Glenn aveva suonato solo un paio di note e già Wertheimer aveva pensato di rinunciare a tutto. Ricordo perfettamente che Wertheimer, quando entrò nella stanza al primo piano del Mozarteum assegnata a Horowitz e vide Glenn e lo sentì suonare, rimase lì bloccato accanto alla porta, incapace di mettersi a sedere, tanto che Horowitz dovette invitarlo a sedersi, ma lui, Wertheimer, fin tanto che Glenn continuava a suonare, non riuscì a sedersi e solamente quando Glenn smise di suonare, Wertheimer si sedette. E teneva gli occhi chiusi, lo ricordo perfettamente, pensai, e non parlava più. Per dirlo con una frase patetica, quella fu la sua fine, la fine della carriera virtuosistica di Wertheimer. Per un intero decennio studiamo uno strumento che abbiamo scelto con cura e poi, passato questo decennio faticoso e più o meno deprimente, ci bastano poche note suonate da un genio per essere liquidati, pensai. Wertheimer non ha voluto ammettere questo fatto per molti anni. Eppure quelle poche note suonate da Glenn sono state la sua fine, pensai. Per me non sono state la fine, perché già prima di conoscere Glenn avevo pensato di smettere di suonare, ritenendo insensata la mia fatica. Sempre, qualsiasi cosa mi fossi messo a fare, ero stato il migliore. Ed essendo abituato a questo, non avevo remore al pensiero di smettere, di dare un taglio a un'attività insensata. Benché fossero in molti a dirmi e ridirmi che appartenevo in effetti alla schiera dei migliori, ma a me non bastava appartenere alla schiera dei migliori, io volevo essere o il migliore in assoluto o nessuno. E così cessai di suonare e regalai il mio Steinway alla figlia del maestro di musica di Altmünster, pensai. Wertheimer aveva puntato tutto, questo devo dirlo, sulla carriera di virtuoso di pianoforte. Io invece su una simile carriera di virtuoso non avevo puntato affatto. La differenza fra noi era questa. Egli fu quindi mortalmente colpito dalle note di Glenn, dalle sue variazioni Goldberg. Io no, per me non fu così. Essere il migliore o non essere nessuno è stata la mia pretesa in ogni situazione. Per questo nella Calle del Prado ci arrivai alla fine nel più totale anonimato, essendo tutto preso dalle mie insensatezze letterarie. La meta di Wertheimer era stata quella di diventare un virtuoso del pianoforte, un uomo tenuto a dimostrare al mondo musicale, anno dopo anno, la sua maestria nel suonare il pianoforte, fino a quando, in età avanzata, se conosco bene Wertheimer, non fosse crollato. Questa meta gli era stata totalmente scardinata da Glenn. Non appena, pensai, Glenn si sedette al pianoforte e cominciò a suonare le prime note delle variazioni Goldberg. Per forza Wertheimer dovette ascoltarlo, pensai, e per forza fu distrutto da Glenn. Se io a quell'epoca, diceva spesso Wertheimer, non fossi andato a Salisburgo e non avessi voluto assolutamente studiare con Horowitz, avrei certo seguitato a suonare e avrei raggiunto i risultati desiderati. Ma Wertheimer dovette andare a Salisburgo e iscriversi, come si suol dire, al corso di Horowitz. La gente non è disposta a rinunciare neanche quando ormai è distrutta, pensai. Wertheimer è un buon esempio di questo. Ha seguitato a non voler rinunciare anche quando Glenn lo aveva ormai distrutto da molti anni, pensai. E nemmeno gli è venuto in mente da solo di separarsi dal suo Bösendorfer. Ho dovuto prima io regalare il mio Steinway per offrirgli l'opportunità di mettere all'asta il suo Bösendorfer. Lui, il Bösendorfer, non l'avrebbe mai regalato. È tipico di Wertheimer che lo abbia messo all'asta al Dorotheum, pensai. Io regalai il mio Steinway e lui mise all'asta il suo Bösendorfer. Con ciò è tutto detto. Ogni cosa che ha fatto Wertheimer non veniva dallo stesso Wertheimer, mi dissi ora. Ogni cosa che ha fatto Wertheimer lui l'aveva vista fare, l'aveva imitata da qualcuno. Wertheimer guardava bene tutto quello che io facevo e poi lo imitava, e così, pensai, anche il mio fallimento lo ha guardato e poi imitato. Soltanto il suicidio derivò in effetti da una sua autonoma decisione. Fu un atto voluto interamente da lui, pensai, sicché non è escluso che egli alla fine abbia provato quel che si dice una sensazione di trionfo. E può anche darsi che mi abbia sgominato per il fatto di essersi tolto la vita, come si suol dire, di sua spontanea volontà, pensai. Da un carattere debole non può venir fuori nient'altro che un artista debole, mi dissi. E questo Wertheimer lo conferma in maniera inequivocabile, pensai. Thank you.